140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. La musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Riff Caffè, Milano. Elettra e Calliope, due anime nel titolo di un album fatto come un tempo, da Andrea Mirò. Accorpiamo una sola cosa, facciamo finta di avere un vecchio vinile e di fare un lato A e un lato B. Il lato A è Elettra, sanguigno, così come la figura di Elettra, della tragedia, quindi diretto, di pancia, e il lato B, totalmente al contrario, Calliope, la musa della poesia, quella con lo stilo e la tavoletta, quindi quella di testa, cerebrale e elettronico. Sono anche un po' due anime delle donne, anche tu sei un po' Elettra, un po' Calliope. Sì, ma anche altre, adesso poi se mi viene in mente un elenco infinito di altri personaggi, quelli sono le due impronte più importanti che ho come background artistico, nel senso che io arrivo dalla musica classica e quindi arrivo dallo strumento e dall'arte in quanto artigianato, cioè fatto a mano, e quindi suonato col corpo, eccetera. E poi però sono sempre stata molto attirata da tutta quella musica, chiamiamola elettronica, da tutto quello che è stato il percorso della musica elettronica via via, mixato con altre cose. Io avevo 14 anni e ho consumato due o tre vinili di Laurie Anderson, proprio del tutto, che insomma era abbastanza strano, ero un po' stravagante da questo punto di vista, e quindi tutto quello che ne è derivato è proprio, fa parte, sono i due colori più importanti che mi interessano musicalmente. Tutto è perfetto, tutto è qui, lasciarsi in fondo è un po' così, che non c'è tempo di spiegare per quel che vale. Prezzi bassi, tintoria tentatrice, la storia si ripete, il ciclo delle camicie, e la notte non vedo lo sporco e sto sereno, al buio bene e male non li distingui nemmeno, sono distratto da altro, dal gatto, dal corso alternativo del fato, e alle 4 mi rendo conto di non aver mai preso una posizione, e sento freddo, avere il corpo è una punizione. Infatti sei andata anche a trovarti delle collaborazioni proprio tra le cose più cool del momento. Sì, direi di sì. Allora, non sono, la cosa bella di tutto questo è che non sono andata a cercarlo. Il disco era praticamente finito e la parte di Calliope, che è stata strutturata e lavorata con Marco Zangirolami, che è uno dei più grossi produttori di hip hop che c'è in Italia, che ne so, Emi Schilla, Fabri Fibra, eccetera eccetera eccetera, eravamo in fase di chiusura dei mix, risentivamo le cose, io sono andata già nella zona del master, che in questo studio dove il master è quando chiudi il disco, cioè i giochi sono fatti, finito. Marco mi chiama e mi dice: sai, è passato di qua da Argendamico e ha sentito i pezzi, è impazzito e gli piace da morire questa canzone, e lui vorrebbe fare due insert suoi, perché vuole fare, mi ha chiesto di chiedertelo. E figurati, io ero troppo gasata, perché poi Dargen è proprio la parte più, chiamiamola tra virgolette, intellettuale dell'hip hop italiano, no? Di quella frangia che ha molte cose da dire, che ha una cifra molto particolare e strutturata. E quindi me l'ha spedito al computer. Io l'ho sentito e pronti via, basta, lo mettiamo nel disco, fatto. Noi ci siamo conosciuti un mese e mezzo dopo. Sogno ad occhi aperti il mondo che vorrei. Testi, le due anime di queste due anime, che poi sono anche le tue, si leggono anche nei testi, che sono particolarmente densi. Sì, allora l'idea era, io quando scrivo i testi c'è sempre questa domanda che mi faccio: non sarà un po' troppo? Non dovrò diluire tutto? E poi è anche vero che è giusto secondo me che un artista secondi un po' quello che sente e che gli viene, perché probabilmente quello è quello che io chiamo appunto la tua personalità, la cifra che hai, il tuo modo, il tuo approccio nei confronti del testo e della musica. Nel momento in cui tu vuoi fare qualcos'altro e premi in qualche modo e, come posso dire, aggiusti il materiale che hai in funzione di qualcos'altro, cioè a tavolino un po', secondo me il risultato non è mai buono, nel senso che la gente intuisce che c'è qualche cosa di troppo costruito dietro. Mi piace che tutto venga fuori così com'è. Dopodiché io so che magari posso avere, come tutti gli artisti, un colore che non può essere condiviso da tutti, ma che piace a una parte di pubblico, e quindi quello è. Chi mi ama mi segua, no? Diceva un vecchio slogan. Lei vuole programmi per giocare, colori vivaci per la casa, un giovane amico a pranzo e cena, si ferma un momento a far la spesa. Hai iniziato veramente giovane e hai un nome d'arte che ti accompagna ormai da tantissimi anni, ma no, io me lo chiedo intanto, ma non ti può stare stretto un nome? Dopo un po' non dici, ma io voglio essere Roberta, non ti sta mai stretto? Allora, oggi stavo guardando un video di Joni Mitchell che all'anagrafe fa Roberta Joan Anderson, e ogni volta che qualcuno mi ha chiesto questa cosa del riguardo al nome d'arte, penso che è anche un po' un retaggio di periodi passati. Se tu pensi all'Italia fino agli anni 80, fino alla fine degli anni 80, mi vengono in mente un numero infinito di personaggi che all'anagrafe fanno una cosa e in nome d'arte ne hanno un altro, totalmente diverso. Era proprio un momento in cui andava di moda cambiarsi il nome. Forse probabilmente oggi leggo nomi come Nardinocchi, Cristicchi, Gagliazzo, no? La tendenza è quella di non cambiare più, proprio perché l'identità dell'artista è poi identità con la stessa persona che canta, che scrive, eccetera. Diciamo che quando io avevo allora un contratto giovanissima con la EMI, e c'era uno della promozione che era un amante di Miró, ci siamo parlati riguardo all'arte, ah Miró che bello, piace anche a te, bla bla bla, e quindi a quel punto abbiamo deciso che sarebbe stato bello che mi chiamassi Miró, senza sapere che nel giro di 4-5 anni si chiamavano Miró anche le pizzerie. Oggi come oggi non lo cambierei più, però avendolo e sapendo che ci sono, quando io ho ripreso, perché io ho lasciato questo mestiere dal punto di vista contrattuale, proprio come artista singola, poco dopo, cioè nel giro di qualche anno, per fare una strada personale, suonando con altri artisti, lavorando in studio e live con altri artisti grandissimi, eccetera, e ho ripreso in mano le redini di questa storia nel 2000, quando mi sono presentata a Sanremo nei Giovani come cantautrice. Però allora a quel punto mi sono chiesta, mi sono fatta la domanda se fosse necessario cambiare nome. Non l'ho cambiato perché poi c'era ancora della gente che si ricordava di me e che si ricordava di Andrea Miró, e quindi ho detto ok. Un po' mi viene in mente Pupo, Enzo Ghinazzi, che comunque continua a essere Pupo, Tanti appuntamenti importanti, ma se ti manca il carisma prendi appunti e dammi retta, puoi imparare da te. Ma a questo proposito, tu cosa provi riguardandoti? Non so, se tu vedi quel Sanremo in cui Pippo Baudo ti chiedeva del parroco, che cosa pensi? Allora, mi viene da sorridere, sorrido perché mi voglio bene e quindi... E quella che vedo è, per me è mia zia, cioè in realtà ero giovanissima, però un po' la moda e un po' insomma questa pettinatura con i capelli morbidi, un po' ricciolù, insomma in qualche modo c'erano tante cose che forse non avevo deciso io, e quindi non mi ritrovo del tutto in quel personaggio. In più è proprio un personaggio che era poi un interprete, che per me è sempre stato un ruolo molto stretto e non per niente a un certo punto ho lasciato perdere e ho detto vabbè, chi se ne frega, voglio fare quello che voglio io. Quindi ho un bellissimo ricordo di quel del Sanremo che tu citi, che è quello dell'87, aiuto, e dove Baudo appunto mi presentò tirando in ballo il coro dell'oratorio, la chiesa, il parroco, eccetera, bla bla bla. Lui aveva questo amore nei confronti del gospel, quindi credeva che fosse, poi forse chi mi sentiva cantare, la prima domanda che si poneva era: ma cosa c'entra questa con il gospel, eccetera? Infatti non c'entrava proprio niente. Avevo una canzone anomala che cantai poco dopo, cioè io salì sul palco poco dopo la performance strabiliante di Paul Simon, che era uscito con un disco incredibile che si intitolava Graceland, e mi dissero che nella sala stampa più di un giornalista si alzò e disse: ai, quel povero che gli tocca cantare dopo questa cosa meravigliosa, poverino, eh? Ecco, il poverino ero io. Là sulla panchina, guarda dove non sa, la signora chiusa nel cappotto non sorride, mentre il cane lì vicino a lei dorme, l'uomo col cappello fa il suo giro come sempre, ma non la disturberà. Faccio l'ultima domanda, che è quella di Rito. E adesso? Allora, adesso c'è un'altra fase dove riprendo in mano il mio discorso live, che ho chiuso, come dire, la prima, di cui ho chiuso la prima tranche il 21 di dicembre, perché poi ho iniziato a lavorare sul progetto di Andrea Nardinocchi. E quindi riprendere in mano tutto quello che è il live, perché poi alla fine della fiera è bello fare i dischi, ma la cosa più bella è suonarli in giro. E quindi voglio suonare in giro molto, anche se è un'altra delle grosse problematiche che ci sono da risolvere, perché in Italia ci sono veramente grossi problemi a suonare nel senso di spazi e via discorrendo, e insomma, coltello tra i denti, navighiamo a vista. Impacchetti bambini, a volte me li sono portati con me, a volte anche no, anche perché a volte sono tour de force, che non è il caso che i bambini subiscano. Cerco di organizzare la loro vita al meglio possibile. Non è facile, perché coi figli non è facile, però è talmente, come posso dire, è prima dei figli e dopo i figli, c'è proprio uno spartiacque a un certo punto, come avanti Cristo e dopo Cristo, è così. E quindi non puoi più pensare al di fuori di questo, ti viene spontaneo, e quindi in qualche modo si fa, come tutte le donne che lavorano. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora musica, ma anche poesia, nella seconda parte del nostro 140 caratteri. La Shigera, Milano. Georges Brassens, padre di tutti i cantautori, a tradurre la sua poesia Nanni Svampa, che lavora sulla sua opera da tanti anni. Negli ultimi anni, mi pare, di università, ho scoperto una mia amica con cui stavo preparando un esame, aveva ricevuto da cugini da Parigi, allora c'erano gli extended, erano dei 33 giri piccoli, no, con quattro canzoni. E ho ascoltato e sono rimasto, io già facevo cose, scrivevo riviste Goliardiche, canzonette, satira, eccetera. E io ho detto: questo qui, a parte che quando senti Brassens la prima volta, anche se sai il francese, capisci la metà, perché tra la pronuncia dell'uomo del sud e questa sua lingua verbosissima, piena di cose, non c'è un respiro. Però ho detto, io ho cominciato a cercare dischi, libri, ho cominciato a lavorarci su. Poi con un gruppo di compagni, Guagliardoni, c'era fatto, volevano fare una commedia musicale popolare, e uno, mi ricordo chi, aveva tradotto uno o due canzoni in milanese, però gli avevano cambiato la musica, cosa che io odio, ma perché, no? Poi vabbè, a parte questo fatto, a me la cosa però mi aveva stuzzicato. Poi come al solito si litiga, ci si lascia, uno parte, io poi a militare ho continuato a a lavorare e sono tornato a casa con un pacco di traduzioni in milanese, perché a quel punto lì la lingua milanese si presta molto, poi per le tronche, vuoi per molte parole di origine francese. E poi c'è un fatto che secondo me è lo spirito che deve avere la traduzione, cioè riambientare, dare linfa nella patria di chi traduce, no? Cioè portare il bistrò all'osteria e portare la Senna al Naviglio è un'operazione non solo geografica, ma ti crea delle storie credibili con tutte le varianti che poi le libertà che ti puoi permettere, ovviamente, ma mantenendo chiaramente il contenuto. E questo successo è stato questo qui. Minga domani in piazza del Don, gay delinquente i don, nel nostro piccolo Alhambra viene che l'ermassa. Ma lei, che è una delle anime di Milano, come si sposa l'anima di Milano con l'anima di Brassens, che invece era profondamente francese e di una parte particolare della Francia? Lui è nato nel sud, ma poi a 18 anni è andato a Parigi, è cominciato lui. La sera la passava in biblioteca, voleva studiare da poeta, e di giorno strimpellava sul pianoforte della zia. Ma vedi, voglio dire, il senso di umanità, il senso di solidarietà, dell'amicizia, poi l'umorismo surreale, no, la satira diretta, sono tutte tematiche che stanno a cuore a uno che scrive a Parigi, come stanno a cuore a me che scrivo, vivo e canto a Milano. Stiamo parlando di due mondi molto vicini, il discorso della lingua è secondario. Milano, come con gli spagnoli e con i francesi, non ha mai avuto contaminazioni così forti, la lingua stessa, dicevo prima, no? Quindi si tratta di una metropoli importante come Parigi, in cui uno canta, ma canta gli emarginati, i poveracci, le prostitute di Parigi, perché non lo puoi cantare su Milano, e canta l'amicizia del vecchio che gli portava la legna durante la guerra, e canta le storie dell'ombelico della moglie di un vigile, come ho tradotto io, che è un discorso quasi surreale, ma comunque siamo tra mitteleuropei, ecco, come matrice, e quindi non c'è stato nessun problema, salvo quello che appunto traducendo la canzone a molti, perché la traduzione letterale tu vai, traduci la canzone, cominci ad avere le rime, le metriche, le cadenze interne, baramama, e poi la credibilità, come dicevo prima, cioè se io racconto una storia in un'osteria del Naviglio, lo vedo perché devo farla in un bistrò, la racconto del Naviglio, la rendo più accettabile, ma non cambia niente. Canti per ti la mia canzone, ti è rutamat, ti è il me barbon, che te me da un po' de mangià, quando seri resta senza ca. Quando si pensa a Brassens in Italia si pensa a Nanni Svampa e a De André. Che relazione c'è stata tra lei e De André, e qual è il diverso modo di approcciare Brassens? Lui ha studiato Brassens fin da piccolo, no? È chiaro, lo ha dichiarato e lo si capisce da come lui ha. Poi a un certo punto si è messo anche a tradurre. Beh, il Gorilla è stata la prima che ha fatto. Ci vedevamo nei salotti bene di Genova dopo il teatro e avevamo scoperto che l'aveva tradotto 40 giorni dopo di quando io ero fatto in milanese queste cose. Ma non nel senso di copiare, cioè ha avuto l'importanza di far conoscere abbastanza, a parte che in Italia per la gente erano comunque di André, ma benissimo, di far conoscenza, perché io con tutto il mio lavoro milanese ho fatto 3.000 concerti, però comunque sia, sono stato anche a Bari e a Roma, però il bacino d'utenza mio è la Lombardia allargata, no? Quindi lui ha avuto il grande merito di far conoscere molte cose francesi. Quindi è importante. In Italia non, perché arrivavano le canzoni alla Aznavour, no? Quelle lì, ma lui era talmente, e anche perché era qualche, negli anni d'oro del suo successo, hanno fatto anche delle. Pensa che Gigliola Cinquetti ha cantato una traduzione di Il Suffì Passe le Pont, che era così una carina. Tu senti la quando passa il ponte con te, cioè non era della musica leggera lui, capito? Vabbè, questo è tutto. Con la sua vanga sempre in spalla, una canzone tan per cantare, una canzone tan per cantare, in fronte al cuore una gran voglia, sempre in giro d'una vanga. Lei ha fatto ha affrontato Brassens, ha affrontato le traduzioni, ha cantato tanto in milanese, però si è anche divertito tanto e ci ha fatto divertire tanto nella sua carriera. A cosa è più legato? Ma io sono legato a, beh, molto a Brassens, perché molto del mio repertorio ancora oggi è quello, e sono legato al successo che non si è mai interrotto, salvo periodi di stasi, no? Perché tutto in Italia a un certo punto quella roba lì per un anno non va, no? Ma tutto il lavoro che ho fatto sulla storia della canzone popolare, tutto il mio interesse per il mondo da cui viviamo, quindi io ho sempre portato avanti parallelamente la canzone d'autore e la canzone popolare, che secondo me hanno lo stesso tipo di matrice, cioè in Francia la chiamano canzone d'espressione, cioè cantare per esprimersi, non per mandare un prodotto a un festival, no? Cioè non per confezionare un prodotto ai fini. Brassens scriveva per esprimersi, i nostri nonni cantavano per esprimersi, dal lavoro in miniera dalla guerra alla Finlandia, cioè, quindi non a caso io questi due grandi filoni paralleli li ho vissuti con soddisfazione, ma proprio sentendo, no? Proprio, se vuoi, a volte magari non ne tenne conto all'inizio, proprio questa, come dire, matrice comune che era cantare per esprimerci. Poi vabbè, a livello letterario chiaro che aveva senso diverso dalla Finlandia, però dietro c'è, infatti io amo ugualmente le due cose, perché se ho sentito da giovane e continuo a sentire questo piacere di interpretare l'espressività, insomma. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.